sei mai visto piangere, sappi che era un'illusione ottica. Stavo solo togliendo il mare dai miei occhi, perché ogni tanto per andare avanti, sai, avanti, sai, bisogna lasciar perdere i vecchi ricordi. Mi chiedi come sto e non te lo dirò, il nostro vecchio gioco era di non parlare mai, come due serial killer interrogati all'FBI. I tuoi segreti poi a chi li racconterai, tu che rimani sempre la mia password del wifi, e chissà se lo sai. Per favore non piangere, di non ci rimanere male, che noi due ci conosciamo bene dalla prima elementare. E scrivevo tutti i miei segreti col pastello bianco sul diario, speravo che venissi a colorarli, e ti giuro sto ancora aspettando. E se mai visto ridere, sappi che era neve nel deserto, ma ormai di questi tempi non mi stupisce niente. Chiedo come stai e non me lo dirai, io con la Coca-Cola, tu con la tisana tuai, perché un addio suona troppo serio e allora ti dirò bye bye. Bye bye. Seduti dentro un bar, poi si litigherà per ogni cosa, pure per il conto da pagare, lo sai mi mancherà. Na, na, na, na. Per favore non piangere e non ci rimanere mai, che noi due ci conosciamo bene dalla prima elementare, e scrivevo tutti i miei segreti col pastello bianco sul diario, speravo che venissi a colorarli, e ti giuro sto ancora aspettando. Oh, oh, oh. Tu mi hai insegnato la differenza tra le ciliegie e la marene, e io non la dimenticherò più. E ti auguro il meglio, i cieli stellati, le notti migliori e le docce di